quello no, non c'entra niente, perché la voce è più bella della tua, solo per quello. Grazie. Sì, figurati, Giova. La realtà è quella, cosa ci vuoi fare? Non è colpa di Antonello, comunque, se lui la voce ce l'ha più brutta della tua. Chi era quello? Avanti. Ehi, a Fabio, Fabio, tutto quanto un coso si scende, ragazzi. Abbassa quel cavolo del microfono. Tutto così ti intendo. Ma aspetta che trovo così, non devi dire tu però, così va meglio. Adesso sì, occupate da un cazzo, un cavallo imbizzarrito. Ciao Antonio, ciao Giovanni, non lo sento intanto a Fabio, ciao ciao, chiudo. Siamo tornati indietro di 30 anni. Già lo credo, siamo tornati indietro di 30 anni. Giulio non ti sente Fabio a te? Senta Giovanni, ma non ti sente. Strano però, perché tu dovresti arrivare lì a Giulio, a Monteoro. Ho trovato una puntata dalla parte, perché ci parlavi, ma ti sento che non ho dalla parte. Ah, quello già è vero. Vabbè, anche vabbè, Giovanna c'è l'antenna invece puntata verso Monteoro, perché c'era di fronte. Ma allora salutiamolo, se non mi serve, va. Perché si scendono come se fossi dentro una galleria? Perché sono in galleria sono, mi serve. Mamma mia. Mi accorgo con l'antenna qua a fianco, non posso farci nulla. Levati quell'ecco, abbassa un po' il micro, cioè qualcosa. È che siamo in FM, la modulazione viene male, va meglio una M questo adesso, così com'è. Perché se no mi rientra il microfono, tocco qualcosa e già fischiare tutto, non parlo più per niente, capito che vuoi. Adesso ti sento meglio, cosa hai spostato? Niente, nulla proprio. Vabbè, il segnale non te lo posso dare perché non ci capisco niente in questo LED. A te piacciono le cose fatte bene. Antonio ti voleva dare questa cosa meravigliosa, mi sa che si chiama un ballerino tipo 3009, ci vai a notte, se lo conosci bene. Quello sì, il mio 3009 lo conosco bene, sì. Ma vabbè, è proprio questo 3009, taglielo la bambina, ma insomma. Guarda che esce molto meglio in ricezione quello che c'è adesso che il 3009. Perché il 3009 in FM vuole allineato, devo aprirlo e allineare la deviazione, capito, per la ricezione, perché era parecchio tempo fermo e quindi è molto meglio quello che sto usando adesso, almeno comunque Giovanni, quando sale il LED ti appare un più 9, lo noterai quando guardi il LED che sale. Dopo che oltre passi più 9 c'è 9,10, 9,20, poi quando sono tutti quanti accesi i LED è fondo scala. Allora, quindi tu sei fondo scala. Esatto, ti segna la fondo scala, sì. Ti segna 9 più tutti i LED accesi. Prova fa. Guarda un po', Santiago 9,50. Ma perché dovrebbe arrivare a fondo scala? Ma arriva a fondo scala? Sì, si illumina fino a su. Sì, ya, sono vicino all'ascensore, guarda. Sei vicino? Sono a fondo scala, sono alla scala, vicino all'ascensore. Culo. Vabbè, ma si chiama ZX40 o ZX40 Pro? ZX40 Pro, ti ho detto da ieri. Polmar. Ma perché ho trovato solo ZX40? Il Pro non lo trovavo. Cazzo, c'è ZX40 non lo fanno più ormai. C'è ZX40 Pro. Tu vai sul B e lo trovi subito. Ecco, c'è differenza, c'è che sono uguali. Sono uguali, solo che uno c'ha solo AM, l'altro c'ha MFM, che poi magari l'FM ce l'avrà, però vorrà impostato, cosa ne so. Bisogna vedere dentro che cosa è, i componenti che gli hanno messo, hai capito? No, questo che stai cercando c'è anche l'FM, qui c'è 4 classi FM. Addirittura quel baracchino lì in FM c'ha il bip, perché a me il bip me lo segna in AM, però non esce, invece in FM esce, è tutto strano quel baracchino lì, è fatto per le trasmissioni, capito, polacche e roba del genere, che lì l'FM lo usano tutti i giorni, addirittura c'è anche le frequenze pari in trasmissione, roba che non abbiamo qui, in Italia siamo sempre 15, cioè 75, 65, 85, capito? Invece lì sono 70, 80, 90, capito? Fanno le frequenze pari addirittura, basta fare l'impostazione. E poi c'è solamente in FM, non c'è la M. Dipende da quello che te li metti. Antone, mi rientro subito. 3,8 volte, 10 kHz stazionale, 50. Io mi sto pisciando, aspetta. 50 ohm, 900 grammi, 4 watt MFM. E niente, sembra le caratteristiche del tuo, però non è però. Dove va? Vediamo anche tu che l'amico che non mi sente. No, lo stiamo parcheggiando. Tutti morti, Giommi. Giovanna si è assentata un attimo. Pomponio sarà con la bionda, con la birra. Con la bionda. Cazzo, mi sbrigo a andare in bagno, me la stavo facendo addosso. Tu immagini se stai bene il coso che senta, che se magari ne si rida avanti, dici all'autista, si sbrighi che devo andare in bagno. Ehi, così faccio io. Ciao a Fabio Master. Antone, io indovina cosa stavo cercando a casa. Col famoso rosmetro 4 metro a correttore della MPG. Sto guardando ancora negli angoli. Io non lo posso paria. Io non capisco dove sia finito questo strumento. Perché ogni volta che viene tua zia lì, ti porta da tutto, come si dice in sardo, e ti incoglionisce, cazzo, magari sposta la cosa da una parte e te la mette dall'altra. Guarda che qui la stessa identica cosa a me. Quando passa Simona mi sposta tutto, devo stare a chiedere a lei, a vedere dove mi ha messo la cosa, capito? Quindi figurati tu. Prima quando entrava in cameretta mia non toccava nulla perché mi incazzavo. E tu lascia la roba dov'è? Ma io le voglio dire, lascia la roba, se non ho non trovo più niente. Infatti non ci metteva più piede. Hai capito? Perché lei è ordinata, io invece trovo la cosa quando sono disordinato, la trovo subito. Se sono ordinato, guai, non la c'è più, non mi ricordo manco dove l'ho messa. A volte magari entro e prendo, deposito la roba o sopra il tavolo, dove capita, poi non mi ricordo manco dove l'ho messa, devo cercare, tutta quanta l'appartamento devo cercare. Magari ce l'ho sotto gli occhi. Ehi, peccato però, 150 euro, che pariti, guarda. Io ho guardato dove era umanamente possibile guardare. Adesso proverò nell'ultimo punto. Probabile che sia stato anche buttato credendo che fosse roba vecchia, magari era in mezzo a roba vecchia, e ci ha buttato tutto. Ma te ne immaginici? E così devo ricomprarmi il rosmetro. Per carità, vabbè, vai Fabio. Ciao, niente, continua a cercare il tuo barattino. Quando ho messo ZX 40 Pro, immediatamente me l'ha dato su eBay. Figurati, c'erano due modelli, quello M normale e quello MFM. Infatti io mi sono girato quello MFM. Quindi vedi tu. E poi se lo vivrei, ya ci vediamo, te lo faccio vedere domani. No, non hai capito, no. L'ho trovato il ZX 40. Uguale al tuo, però non è troppo. ZX40 era di parecchi anni fa, una decina di anni fa, praticamente credo gli abbiano aggiornato solo la circuitazione, per il resto anche il primo era MFM, Antone, garantito. Avevo capito male, hanno aggiornato? Allora, credo che dal Polmar ZX40 al Pro gli abbiano aggiornato la circuitazione, per il resto anche il vecchio aveva MFM, garantito. Ho capito. Vabbè, adesso quello che ho pigliato io posso metterci le bande A, B, C, D, E, F, quello, ma non me ne frega niente. L'unica cosa che mi non prende bene è cos'è il microfono. Perché il microfono ci hanno messo un altro parlante, non c'è ALC per niente. Ci sono solo due trimmer. Uno è per il LED in trasmissione e l'altro per il LED in ricezione. Basta, non c'è altro. Non c'è nessuna regolazione, nessun punticello per dire no, boh. Non c'è schema elettrico. Pensavo che c'era lo schema elettrico. In base allo schema elettrico al limite l'avevo modificato. per dire, però il finale audio c'è, quello già c'è, mi sembra che un KIA. Più c'è un altro finale che è a fianco a quello, che non ho capito cosa diavolo sia, non l'ho neanche controllato ieri. L'ho aperto per vedere cosa c'era di bello. Poi per la modifica ce l'ha allo stesso livello dell'MB40, nel frontalino, c'è da fare un porticello e mi dà tutti i canali che voglio. Comunque proprio quello è un apparecchietto da comprare, giusto se si vuole l'apparecchio omologare l'apparecchio omologato da mostrare in caso di controlli. Ma solo per quello andrebbe comprato, perché poi di omologati ce n'è migliori di tante marche. Poi vabbè, il 3009 come omologato è il migliore. Infatti stavo quasi pensando, è che o prendo il Rosmetro o prendo il 3009, capito? Dalla Spagna. Così ne ho uno bello nuovo da tenere per il futuro, capito? Ma per il Rosmetro non lo so usare in avanti, ne va in nulla, in teoria. Io mi sarei comprato il cavo per farmi la discesa per l'antenna VHF invece, al posto tuo. Tanto non ci vuole molto installarla. Basta una staffetta agganciata nel palo, poi che una volta che ti cade il cavo giù, puoi parlare tranquillamente in VHF, VHF esci forte, ricevi tutti, capito? Posso mettere l'interazzino, dato che ci sei, avete sbloccato l'antenna sopra, puoi fatto con la spesa lì, tanto i baracchini già ne hai, non è che non ne hai auffa di baracchini, quando falli girare tutti te ne passa la voglia. Beh, guarda che molti li ho dati, ho scremato gran parte dello scremabile, ho tenuto i migliori praticamente. Vabbè, tenuti i migliori, lo so. Io guarda, c'ho questo qua, c'ho l'FM500S, c'ho quello che mi hai dato tu, e con le scolate, e con le 4.000 che mi hai dato tu. È più portatile che l'ho prestato a Giuseppe Leoncino per poter parlare qualche volta, solo che qua non arriva perché è in altra direzione, capito? Dalla cucina lui arriva tranquillamente nella zona della Budi, sauce e cosa del genere, invece da questa parte non arriva per niente. Boh, mi sono fermato così di apparecchi, non li voglio altri, inutile riempirmi di baracchini, quando poi non li usi vai a accenderli e cominciano a rifettare. Meglio niente. Poi rilancio Fabio. Ma perché Leoncino antenna sul tetto non ne ha più? Ce l'ha, ma si è dissaldato il puntale della BM27L che va dalla carica all'alluminio, capito? Adesso quando il fratello passa a casa sua, scendo giù col saldatore e gli faccio la saldatura con il saldatore quello grosso, in modo che non si molli più. E poi ce la rimettiamo un nuovo rover dall'antenna. Dai, riprendi Fabio che io continuo a cercare qua in casa, ok? Dai, vai Fabio, master. Sì, sto frugando, continuo a frugare. Niente, siamo nel finito. Trovo la tutta il 40, non ho tutto il ricordo, vado su Amazon. Antonè, tu da chi l'hai preso? Per caso SMT elettronica, così si chiamava? SX... Aspetta, te lo dico subito che l'ho aperto il pacco. C'è nel volo qua. Comunque Fabio, sì, ce l'ho anch'io quello. Io l'avevo preso quando non avevo questo omologato. No, questo è AMFM SSP. Quello l'avevo preso proprio per la concessione da mostrare per i controlli, ma è un giocattolo. In AM esce tutto barattolato. In FM un pochino meglio esce, ma è proprio un giocattolino. Peraltro l'avevo trovato in super offerta tipo 59 euro, adesso ne costa 79, che mi sembra di ricordare. Sì, è che è omologato, cioè, capito, bisogna avere una parecchia omologato, cioè, volevo prendere quello, poi insomma piccolino, ho fatto, non posso mettere in camper, lo posso portare anche sull'altro camper, insomma una cosa carina, piccola e legale, per quattro puliti, belli, con vecchie omologazioni, ne ho un M340, c'ho un 4 S, uno Zodiac vecchio, quello che vuoi, sono tutti in ordine, ma non è stati, tutti puliti, che sono 4 VAT. Mi spesso che purtroppo poi ci vuole qualcosa di marchio c'è, oppure devo pure controllare l'alimentatore con marchio c'è, perché se non fanno il controllo, c'è l'alimentatore per non ha il marchio c'è, sei pregato, è uguale. Eia. Sì, l'alimentatore, vabbè, se lo compri dai canali ufficiali italiani dovrebbe avercelo 99%, vabbè, se lo compri dalla Cina, magari tipo AliExpress, quei siti là magari non c'è il marchio CE. È un'altra, se ne sono inventato un'altra per spillare soldi, dai. Questo ce l'ha Marco CE, marchio CE, però è grandetto. Questo in camper, vabbè, oddio, il posto si trova, ma è un barragione. È sempre veicolare, però c'hai AM, FM, CCB, in AM c'è bene, in banda laterale c'è bene, in FM, boh, non lo so, dovrebbe uscire bene. Sì, sì, il discorso è che cambia molto bellino con l'applicatore al centro, con i tastini tutti, io mi affetto quando faccio le cose, capisco? Poi, quando nel mio camper, nomino anche gli altri, ci faccio pure qualche lavoretto. Le pannelli solari, lo cambio delle batterie, no, per i problemi di corrente mai problemi di batterie. Perciò è tutto pulito, tutto originale, però con le modifiche che fate in maniera tale che sia in accordo con il cruscotto, le pareti, eccetera. E serve una cosa piccolina, pratica, che non abbia né peso, né chissà quali tipi di staffe, eccetera. Qualcosa che si mette la mano, farlo via, oppure appoggiarlo in un punto in cui magari si incassa bene, usarlo con la proposta di con la mezz'oretta, magari si c'è insieme, e allora anche l'altro amico ci ha parecchietto. Non mi fido di usare la 38, perché anche se è omologato, cioè la scelta con la 38, non ha mai più c'è, perché è un modello vecchio, cioè avrà 25 anni il mio, sembra nuovo la batterina, però a 25 anni non c'è mai più c'è, capito? Sì, è vero, è vero. Peccato però, perché magari gli apparecchi sono validissimi, le emissioni sono sempre a norma, però boh. Vabbè, ogni tanto se ne inventano una per spillare soldi, dove si può spillare. Che poi il marchio CE c'è. Alla fine, a meno che non venga l'escoposto per un controllo a casa, non credo che lo verifichino, cioè quando ti fermano in macchina al limite vogliono vedere il bollettino pagato e poi non stanno a vedere il marchio CE, non ne sapranno nemmeno i normali agenti della stradale, della polizia, carabinieri, insomma. Non so, sono rimasto scoccato anche anni fa da un amico di Castello di Corradamello. Mi hanno suonato, hanno sentito, dai che guardi a casa, era la moglie che avevano ascoltato, suona anche poco più giù, la moglie apre la porta, lascia la porta aperta, dice, chi è Giovanni? Ma parla ci sono, questo è Giovanni, ecco chi erano, c'è la porta accostata, aprono un attimino di qua che gli dava la porta e c'era davanti alla stazione. Non mi ricordo, io guardo una cosa tipo 25 milioni di multa per un apparecchio che non era omologato, tutto pulito, la cosa, quello che vuoi, però l'apparecchio non era omologato, perché questa voce dopo 4 guarda, non era omologato, non era l'apparecchio dichiarato, 25 milioni di multa. Sì, ma all'epoca, persino all'epoca mi sembra troppo, 25 milioni di lire di multa. E caspita, e se avesse linearoni allora, direttive, cosa, come andava a finire? Esso Maria. Sì, c'era un mezzo di ciclofono, se non avevo detto sono attraverso, non c'era due macchine, si spostava a parlare con la moglie, cioè le conversazioni erano verso mezzogiorno e mezza, tutta la pasta, non è niente di particolare, capito, non è che se ne un giorno con il pan del frame. Poi c'era la rendita che c'era la cosina. Perciò loro erano indisarriti per questa cosa che gli avevano peccati, ma la parecchia non l'avevano provato, per cui hanno fatto preparare via 25 milioni, quindi quello non si poteva mettere. Esso Maria, intanto gli hanno messo il massimo della sanzione, per carità. Soldi rubati anche quelli mi. Beh, per un baracchino. Ui. Antonio è rientrato, sì. MPX elettronica. di Foggia. Poi hai trovato il numero di telefono ieri sera, Fabio. Basta che telefoni domani e te lo ordini. Ma direttamente con loro, mi Marco mi stava dicendo che si paga di meno di per mandato la casa con un pagamento differente da quello che ho fatto io. Con che pagamento era, Marco? Guarda, credo che se paghi con tipo PayPal, carta di credito, paghi meno. Tu ho letto dunque, l'apparecchio dovrebbe costare 79,90 o giù di lì, no? E la spedizione ho letto 8 euro. Tu hai scelto il contrassegno, però Antonio, se scegli il contrassegno sono roba dei 5 euro in più, non è possibile che tu abbia speso 20 euro di spedizione. A meno che con la scusa del coronavirus, del personale che lavora a rischio, della trafila, non lo so, si saranno inventati qualcosa per fartela pagare un bel, con la scusa dell'emergenza, capito? E c'è anche scritto 23 euro di spedizione. E infatti ho detto, vabbè, ordiniamo lo stesso, ho detto, tanto mi, se per 100 euro ho detto si spendono. Perché Fusano ne voleva 100 euro di quell'apparecchio là. Mi ha detto, ci hanno detto, lascio 100 euro, ma che bene che te lo ritiri. E ho detto, vabbè, già me lo ritiri. Invece è passato il mese e è rimasto sempre lì, perché c'avevo altre cose da fare. Dopodiché siamo comprato, mi sembra, un altarino e poi mi sembra che è rimasto un altro, se l'aveva comprato un'altra persona. Questo in pratica è il terzo che è in giro, capito? E gli ho detto a Marzia, ha detto, se per 100 euro, ho detto, me lo buschi, ce le devo chiedere a zio, mi ha detto, perché c'era mio zio con gli apparecchi lì, capito? Quindi a un certo punto, cioè, mi è andata bene, ho speso 98 euro io, quindi giusti giusti, tra una cosa e l'altra. Se non volevo affusare ne spendevo 100, quindi sono 2 euro in più. Quindi sono andato bene, sono andato, non è che mi devo lamentare, però se uno vuole risparmiare bisogna che aspetti questa fase di coronavirus, che hai visto anche tu, pensi che ci sono su eBay baracchini che costa, per dire che trovavi fino a 6 mesi fa 100 euro, massimo 200, te li trovi 700, chi ne vuole 300, chi qua, che là, si hanno aumentato i prezzi per i fatti suoi, capito la gente, specialmente i negozi. Io ho pagato 98, quindi figurati, siamo lì. Io ho pagato 75,99 più 23, siamo lì. Io quando ho comprato la famiglia a uno che era da 55 euro adesso, però no, insomma, bisogna chiamare per un attimino. 55 più 10 di condizione sarebbe male. Ah, beh, è una cosa piccola, omologata, che costi poco, no? A spendere una cifra esorbitante, tanto ti serve solamente per farlo vedere quando vai in camper, non è che poi da lì al limite per non lasciarlo in camper te lo porti a casa, se arriva il controllo a casa sei a posto, solo per quello, non per altro. Poi, vabbè, non è che usi quello lì, perché visto com'era il microfono ieri, mi sono messo le mani in testa, quello va bene, solamente mi perdere loro. A casa, appeso, in qualche posto, quando vengono si arrangiano. Poi per poter utilizzare, mica utilizzo quello, gli apparecchi no, utilizzo l'A87, c'è l'ATA ancora, c'è l'FM500S, per dire, che escono molto meglio in AM e c'hanno un buon microfono. Toccando le cose giuste, per evitare le qualità di non si trova una bella radio, anche bisogna trovare un microfono che si adatta bene a quell'ingresso lì. Cosa non modificare un po' l'ingresso, che cambia la linea, l'esplosione di distanza, che le catarattine già esce bene, non è che accidenti o ecco che può uscire da NFM e viene mai uscire in AM. Non sarà, ma con un compressore che c'ha, con un imitatore, da toccare appena appena e insomma aprire un po', avere una radio un po' chiara, non dico di avere la radio che puoi avere con 3.9, ma se è pulita, la radio un po' amplificata, eccetera, quindi dappertutto, 4 watt, una buona antenna, non è male. Sì, già lo so. Il fatto che non venuta, non ci sono manco trimmer di regolazione, niente, ce ne sono solo due, ti ho detto, fanno parte dei LED, capito? La connessione dei LED basta per la ricezione e per la trasmissione, boh, non c'è altro. Tutto il resto, tutti i componenti sono, magari c'è un componente da cambiare, magari il cortocircuitallo, niente di strano, che bisogna fare così, cambiarli magari un transistorino, solo che non c'è schema elettrico, sulle leggi non ci puoi arrivare, hai capito? Il discorso è quello lì. Se avessi avuto lo schema elettrico ci sei arrivato solo, perché dal transistor in poi parte la regolazione, poi c'è la deviazione per l'FM che non c'è d'altronde, non c'è trimmer, non c'è nessuna deviazione, nulla, è tutto già predisposto, già trattato con le resistenze, hai capito? Quindi non puoi regolare nulla, devi solamente, mi direbbe trovare lo schema elettrico, arrivare a quella resistenza lì per dire e cambiarla, a posto della resistenza si mette un trimmer dentro e si fa la regolazione, solo così si potrebbe fare. Guarda, 2006-2009 è lungo, gas, quello che c'è, cioè il circuitino di limitazione tra la modulazione, no? Lo traffico che va in conduzione, pratica, un traffico di nel tavolo, senza fare nessuna modifica, quindi ti distalli i piedini e quelli fuori, e hai una modulazione molto per solo, cioè devi stare attento, quindi non manca un ciclato, rischi sempre di sforare, di andare a distorsione, magari così. Però, avendo un circuitino pure quello di LC, per quanto riguarda la amplificazione microfonica, lo si individua, anche se non c'è lo schema, ci arrivi, che piano piano, ti misuri le cose, te lo guardi, eccetera. Alla fine ci arrivi, capito la soluzione per creare una bella macchinetta. Io mi ricordo che negli anni 90 scoprivamo le positive dei circuiti, non avevamo manco lo schema elettrico, però ci arrivava a fare la modifichetta, togliere quel problema, aggiungere un canale, insomma, considerava lo stesso. Quindi no, pensate perché sono apparecchi nuovi, che sono costruiti in maniera un po' diversa e sono in SMD. Bisogna stare un attimino di attenti e si trova in qui. L'unica cosa è andare sul sito OJK e controllare se c'è qualche modifica da fare per la modulazione audio, che senz'altro ci sarà, capito? Una volta che c'è lo schema, dove sono i componenti, come la foto che mi hai mandato l'altro giorno, immediatamente, capito, ci vuole poco a cambiarli, oppure fare qualche cortocircuito di qualche resistenza, cosa del genere, in modo che pompi di più. Perché, cioè, avere una capsula 150 ohm che sembra un altoparlante, no, sono garidati. Ho messo quella a condensatore, ma non funziona perché non c'è l'alimentazione. Cioè, in pratica, l'uscita c'è di 9 volts, perché l'ho vista. L'ho controllata col test e c'è. Hai capito? Basta solo alimentare, per dire, la capsula col condensatore e fare come l'ho fatto nel microfonino NB40, tale e uguale bisogna fare la cosa. Allora si è a posto. Quindi la parte con le 10 che io devo coverlo, altro che quanto devo questo microfono? Sì, le F10 ce l'ho anch'io, ma ce l'ho attaccato alle FM500S, le F10. Allora, non si può usare le FM510, adesso lo cerco. Certo che le F10, certo che l'F24 c'è l'F10, non so, non c'è l'F10 in giro. L'F24 c'è l'eco, se non mi ricordo male, basta togliergli quella, cosa cavolo era, una resistenza, a posto di quella resistenza li metti un trimmer dentro e ti fa l'eco lento. Non si trovano, non c'è l'F10 in giro. Io mi ricordo che con l'F24 mi sembra che si trova. Il 24 dollar girava da paura, mi pare che sia sottosissimo, lui è vero, per 40 canali, per solo a vedere, dici, ma cosa cos'è? Sembrava una parola di origine, di quelli serie 8. Ah beh, guarda che Polman, una volta i palacchini Polman c'erano anche buoni, li vendeva Tony, non li vendeva Tony oggi, invece, li vendeva Melchioni, c'era il Polman Nevada, col fontanino grigio, te lo ricordi, con i led rossi. Quello era bello a modificare, mi cazzo, turbava come un treno, turbava quel baracchino. C'era Mario Masi quel baracchino lì, con la conservata originale, figurati. E poi addirittura, poi c'era il Midland, mi sembra, quello che avevano fatto, quel modello che ci metteva le batterie e l'antenna telescopica, anche quello tubava bene, lo attaccavi tranquillamente con l'antenna pipetta, senza avere massa niente, e ti sentivano tutti. Stava per formare il valore vicino a Baracchino. Chissà che fine ha fatto, chissà chi l'ha dato, come l'ho girato. Non mi ricordo niente, mi ricordo che era in fondo, ma era neanche in grassetto. E ci ho modulato per almeno 3 anni, con un pezzo di filo che gli scendeva dal corso. La terra era qui, a studio, tutto imboscato in un cassetto, la stavano a farlo toccare, tutto ti dico. E usciva un po' così perché non aveva il microfono. Poi con l'F24 è volato, andava veramente bene. Era molto semplice, solo 40 canali, c'era la possibilità che non potevi fare bene i controlli, se era 9 o 30 o insomma, era una porcheria per avere segnato. Però era tranquillo, con l'F24 usciva anche benino. Sì, già lo so, ma se erano tutti i microfoni si adattavano in quegli apparecchi antichi, specialmente nell'FM500S, figurati, e Mitra hanno la stessa identica cosa, sono gli apparecchi che per agganciare qualsiasi microfono vanno benissimo, vanno. Avanti Marco. Marco deve sacchettare qua cercando quella roba dell'MFG, chissà dove cavolo ce l'ha messo, c'è l'armadio pieno di apparecchi, e ogni volta che arriva la zia gliene svolta tutto e gli cambia posizione. Stavo trafugando ancora. Dai, mi sto messo, stavo portando un po' di bello. Allora sta frugando ancora. Coco. Ma secondo me sta scendendo un po' meglio questo microfono perché c'è la batteria un po' scarica. Guarda di meno non innesca. No, già sta scendendo bene, non è che sta scendendo male. Adesso ormai mi devo pigliare la batteria, anzi 2 batterie a 9 volte per comprare una miniatura. Uno spinotto a 8. E provo a agganciarli, ma sarà molto difficile avere funzioni, gli aggancio il microfono dell'Intec FM500S a quell'altro baracchino. Ma se c'è l'altro apparato sono sicuro al 100% non funziona. L'unico che funziona secondo me sono i microfoni amplificati, quelli palmari. Vediamo un po'. Li metto le FDC, li metterò questa è la figlia in Napoli perché è un microfono piccolino, però gradirale ti viene lo svegliamento solo a sentire come esce, mi sono sentito, guarda come esce di radio, non c'è nulla da fare, ho trovato anche un altoparlante piccolino, l'unica cosa che andrebbe bene sono di quelli altoparlanti, ma sono molto più grandi, quelli che usavano una volta i portatili su canale 14, mi ti ricordi, quelli che rendevano unico portatile, faceva senza microfono e niente, c'era l'altoparlante, pigliava e parli e ascolti, solo quello potrebbe andare bene. Ascolta, guarda che c'è l'uno, eccomi. C'è da collegare a vedere come esce. C'è la sorta di uovo di tutti i criminali, quello che ho modificato per prima di avere le forme. E poi volevo fare una prova con te, perché ho un portatilino a quarti, ma solo il quarto di trasmissione, però non c'è un quarto di ricezione, gli mancano tutti i quarti dentro, trovavo solo un quarto per il canale 15, e volevo provare proprio l'antenna telescopica a vedere se ci arriva a te, allora facciamo la prova. Prova, non c'è problema, trovo ad attaccarlo. E non c'è problema, così lo proviamo se arrivi qua a casa. Mi sa che c'è stato un break avanti. Ehi Antonè, allora in questo momento sto usando il Polmar ZX40 Pro come esce dalla scatola. 1, 2, 3, c'ha quel microfono suo schifoso, eccolo qua. Ahi. Sembra che sei dentro un... che stai parlando dentro un lavandino, la verità. È uguale identico a quello che ho io, tale uguale. Però a me mi scrive l'OGBP, ma l'OGBP la verità non, in AM non esce. Tu mi hai detto che esce in FM. Io non ho mai provato in FM. Marco! Ehi Fabio, allora hai fatto l'OGBP in questo apparato, è fatto solo per l'FM. Il perché non lo so. Vai Fabio. L'apparato ZX40 Pro come esce dalla scatola. Devi uscire dalla scatola però, tu sei ancora dentro la scatola. notato la differenza rispetto al 3009? Ecco, questo è l'apparecchio, come lo compri senza toccare nulla, anche perché non c'è nulla a toccare. È una cagattina, infatti 100 euro è un furto 100 euro per questa apparecchietta, è una gaggata, lo dico a parole mie, è una gaggata. Io l'ho preso solo per mostrarlo in caso di controlli. E conta che in FM esce meglio che in AM, in AM esce ancora peggio, lo volete sentire? Aio in AM. Aio in AM. Parlate che mi regolo il volume. Hola, vedo che il micro non sale però. Hola, non so nemmeno se stia uscendo, porca miseria. Non mi sale la modulazione, era un po' di tempo fermo. Antone, come ti sembra? Una gagata? Sì, come esco io, tale guarda, quella che lo fa anche a me, quello del mix. Che a volte se ti metti a fischiare sale di colpo, poi invece rimane fermo. Lo fa anche a me, l'ha fatto anche a me ieri, quindi non è roba di difetto perché era parecchio tempo fermo, è proprio il solito suo, capito? Tutto lì. Se mi piglio l'altro 3009 cosa faccio? A un certo punto non uso più questi, il discorso è quello. E da parecchio tempo non usavo neanche quello che mi hai dato tu, quello grande. Infatti è stata Giovanna, ha detto usalo tu. A me ha detto non fischia come il 3009 e sei tranquilla, lo riesci benissimo. Capito, non è che ce l'hai, tu ogni tanto ti fai girare gli apparecchi, io non è che sto tutti i giorni a girare, cioè ogni tanto uso uno, uso un altro. Quello me l'ho preso solamente per l'omologazione, basta, non mi serve nient'altro. Quando vengono, se lo installano, se lo piazzano, fanno le prove, a me non mi ha fatto nulla. Ehi, aspetta che mi ascolto, 1, 2, 3, ah, in FM, ecco perché. Scusate. Prova, mamma mia, io radio non ne sento, cioè, o fischia o non sento la modulazione, prova, mamma di turchi, vai Fabio. Sì, ma lo facciamo la prova, ci spostiamo un attimino sui tanti cellulari tedesco. Ci spostiamo dove? Un attimo sui 15. Aio, questa è Grecia, 15. Aio. Segnale 3. Qua non c'è Smithar, però arrivi. Cioè, lo Smithar c'è, ma è barrette senza numeri, quindi non vuol dire nulla. Sì, lo sento. È un po' nel QRM, però, Antonete, riesci a copiarlo meglio tu? Segnale 3. Sì, segnale 3. Comunque già esce come portatile. Non c'è questo granché di radio, però esci. Quasi 5. Ah, di quei portati di tutti in ferro, e cosa vedi? Ne ha preso nel buco, te ne parla la massa quando usa. Praticamente. Comunque già arrivi a voglia. Avanti Marco. Il Marco sai che dovresti fare? Tanto che c'è un bel po' di microfoni in quel baracchino in questa cosa. Ti faccio lo schermino per collegarti i fili. Te lo mando su WhatsApp e ti scrivo qual è la portata, qual è la ricezione. e così ti metti un microfono amplificato, questo Natale esce bene, sia con l'M43 che con la cosa, l'MP4 che gli ho dato. Ma tanto non ne uso Antonello, l'ho attaccato giusto per farlo funzionare, perché lo fermo da mesi e mesi. Poi questo indicatore di modulazione non serve a niente, perché guarda, io modulo, praticamente mi va una, due tacche, poi certe volte guizza a fondo scala, poi lo smitta delle tacche senza numeri, cioè queste tacchettine verticali senza numeri, praticamente non serve a nulla allo smitta, come che non ci sia. Sono che sono, guarda le tacche sono, adesso ti dico quante sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tacche, e non, per carità, vabbè, comunque, a vostro giudizio, in FM esce un tantino meglio o è al pari della M? Ah, in FM, vabbè, la modulazione si può trovare con la manca, su tutti gli apparecchi, nella scatola, però non c'è scontrino, perché l'avevo comprato online, magari lo scontrino non l'hanno messo, comunque mi ricordo che era una super offerta, ma a livello di tipo 59,99 euro, e come ho sentito 100 euro adesso è una follia per un apparecchio del genere, per carità, infatti lo tolgo solo per farlo funzionare ogni tanto tempo, in modo che non si rovini, che non si scarichino troppo i condensatori. Volare, stavo pensando, che vanno a fare la cosa, l'adesivo che c'è dietro, tanto l'adesivo marcato c'è, vedi, ci lo metti nel tornado dietro, e gli scrivi Ares, gli fai scrivere nel frontalino. La marca, capito, dell'adesivo che monta quell'apparecchio che ti sta dando, l'ho fatto io, e te lo fai omologato. Devi trovare qualcuno che ti faccia che ti scriva ti faccia affrontare un nuovo, capito? Ti metterà il marchio Ares, per dire, davanti e anche dietro, così almeno quando glielo presenti dice questo è omologato, vabbè, marcato c'è. Solo cercare di farlo a quel po', mamma, dai. Ne stacco l'adesivo, ce l'ho messo, alla 87 ce l'ho messo. No, è interessante, il tempo come si chiama con questo palazzo, che stiamo regalando, io così già mi sono una spera, ho capito. Io ho giocato, ma come proprio c'ho un'idea. Come il ZX40, ma per quello che ho speso va bene, non me ne frega nulla. No, va bene per la ricerca, capace che poi con il microfono eccetera lo uso anche lì. Tanto bene o male ho capito che non è che ci spostiamo di 200 canali, siamo sempre su 10, a lui andiamo su 14, così. Sì, vabbè, la passione c'è, la potrete ascoltarsi, per esempio stavo ascoltando i 15-20, molto interessante per la radio, da parte del mondo, con il ricevitore Philips antico che stiamo andando il filmato. Però per il barattino, cioè se riesce ad avere un pochettino di radio, 5-4 bassi, a posto, quindi di che cosa, non capisco. Sì, vabbè, quello che esce va bene, quello che ho preso io, non mi lamento. Mi lascio il microfono solo normale, che non me ne fate nulla, capito? Ho visto gli altri microfoni, questo già esce, quindi. Comunque le amplificate, se li da questa verità esce un bel forte, come... Sai come sarebbe piaciuto trovare uno di quei microfoni in salerta? Ti ricordi quello palmare rettangolare che c'ha l'effetto del reverbero? Te lo ricordi? Uno di quelli andrebbe benissimo per quel baracchino là. Io l'ho avuto quella salerta, e ne avevo due addirittura. Il circuito mi sembra che c'era ancora, però mi manca tutto il resto, perché non funzionava, era tutto quanto messo male, saldato, tutto strano, era. Uno di quelli lì andrebbe bene, se non ne mette a 100. Sugli unici microfoni che dovrebbero andare bene per quell'apparecchio là, che pompano parecchio come l'altro. Adesso che c'è la scheda, non c'è più il microfono. Non è un problema, no? Perché se lui era scelta al sistema, dopodiché te la metti a livello. Usi il microfono originale, però ci metti una capsula docente, così ti arriva a destra, gli fai tutti i cerchi, così ce l'hai amplificato, va bene, no? Col microfono originale c'è una figata. No, se lo faccio così com'è, non ne metto un'altra roba. Non mi sto immaginando che gli unici microfoni che vanno bene a quella palicola sono quelli lì. Il Salerta, l'MB più 5 dovrebbe andare proprio a pennello. Adesso vediamo a te se modificare l'MB più 4, adesso. Quindi, di fare la modifica, di fare dovrebbe uscire benissimo. C'è sempre quel tono metallico fine fine comunque. Secondo me, adesso vediamo un po' se riesco a trovare lo schema sullo JK di questo baracchino qua. Se trovo lo schema lo cambio completamente di uscita di radio, te lo dico io. No, io ho cercato lo schema, ho trovato la cugina, te l'ho mandata, anche lì sullo JK, non è un apparecchio ritenuto molto interessante, capito? C'è chi ce l'ha, c'è se non me lo porto in camper, qualcuno gli ha fatto la modifica a 200 canali, però sulle bande altissime, sulle bande bassissime praticamente non esce, o esce con mezzo watt, tutti con questa radio che è comunque una scatola, niente, non è considerato proprio un apparecchio chissà come, un mezzo giocato, però intanto se ha piace, ma gli fa tutto Mattia Cerca, non spenderà più soldi, almeno quei pagati non ce l'hanno con Mattia Cerca. Mi spiace, c'è stata una chiamata. Beh, nel camper, guarda, meglio lasciare una cosa del genere, come lasciarlo in barca, perché quando a volte abbandoni il camper in qualche posto e ci lasci l'apparecchio dentro, se ti aprono il camper ti rubano quel cesso e basta, hai capito? Invece quando cominciano a rubarti 200 canali, un po' ti si girano le balle, hai capito? Tutto lì. Quindi la gente sta diventando furba, capito? Ce lo installa lì, lo fa fisso e in pratica è, almeno se ti apri il campo e va a fanculo, ti portano via la bombola, ma cosa ti portano via la bombola? Ce la lasci dentro. O sono stereo e baracchino, perché ormai con la fame che c'è questo periodo si butta da tutto. Quindi è meglio un cesso, almeno sei più tranquillo, perché quando ti sfondano, quando ti aprono la porticina, che se ne frega, me ne prendo un altro di baracchino, per quello che ho speso. Prova. Ieri per messaggio, tra l'altro, con le coordinate, con il tipo di trazione, e quel uomo là non c'è nemmeno, perché c'è sempre il buon colore. Figurati, aspetta, Marco, avanti Marco. Allora, prova 1, 2, 3, mi sembra anche peggio dell'altro, prova. Mi sento male io, qua. Non mi sento bene, mi ascoltate voi? Prova, 1, 2, 3. No, esci molto meglio dell'altro, la verità. Molto meglio con il microfono. Addirittura, cuore di gabbo. Sai cos'è? Arrivo, passo al baracchino, l'altro baracchino è senza antenna. Vediamo se gli metto un mozzicone di antenna. Gli metto un cacciavite, e c'è, vedi? Scusate un attimo. Ecco, adesso il segnale c'è. Ma c'è giù un cacciavite, mi. Allora, ola. Uno, ola. Prova. 1, 2, 3. Tieni da fare. Se parlo di lato, ecco, se parlo di lato non fa lo sputazzo. Come lo trovi, Fabio? Passabile? Guarda, può stare sotto la porta, al corridoio che fa anche il settore. Allora, questo è ancora più sciabitato dell'altro, è nuovo, quasi non ha un graffio, quasi. C'ha volume, squelch, addirittura non ha manopole i canali, c'è i tastini up down per i canali. Vabbè, perché non riesco a capire? Ah, ecco, ha già sbagliato. Eccolo qua, sì, adesso mi dicevo. Poi l'indicatore display è ancora più minimale, cioè qui c'hai un piccolo, hai un francobollo come display dove vedi il canale e il modo di emissione. E ti appare anche TX, presumo anche RX, vediamo se mollo. Benissimo, cambio di volume, basta, te lo affido. Guarda, questo credo che costasse addirittura tipo 49,99, 50 euro, ma questo non è vendibile, te l'ho detto. Quando potrò salire glielo mollo a Pomponio, guarda, dovrei avere scatola, gommini, tutto, c'ho la staffa, capo originale, staffa, microfono. Ah, peraltro il microfono non ha nemmeno i tasti up, down, auto squelch, nulla, non va un cazzo che c'ho. Ma no, c'è da poter parlare, vuol dire. Aspetta che c'ho l'alimentatore che ronza, dimmi Fabio. Non c'è da tanto per parlare. Sì, il tanto per parlare c'è, però cioè non ha lo smitter questo, proprio c'hai un francobollo dove c'hai il canale AM, TX, anche l'FM ovviamente, e anche la scansione dei canali, giusto? E il tastino anche per il canale 9, che è tanto inutile. Mi è sembrato di sentire un break, avanti. Vabbè Marco. Vabbè Lucarie, come ti sembra questa modulazione? Il segnale è messo in basso, vabbè qua purtroppo non c'ho l'antenna. È buona. Ah, ma tu non sei a casa adesso, qua non c'è smitter, sei di là. No, qua sono di là, sì. E tra un po' salgo, là. Aspetta, sono smorto, lo porto su a casa. Eia, sì, sto usando un baracchinetto che devo dare. Vogliamo provare in FM, Pomponio e Fabio, vogliamo provare se esce in FM, perché non è detto che esca a questo punto. Andiamo. Prova Marco. Hola la cipolla, sto parlando di tre quarti al mic per evitare sputazzamenti, sto parlando abbastanza vicino, 1-2-3-4-5, mando prima avanti Fabio che è il diretto interessato, avanti. Modulazione professionale, cosa è un cable? O sta uscendo malissimo o esce discretamente bene. No, è questa cacca di apparato. Adesso mando, faccio la foto, la mando a Pomponio e se avete il contatto WhatsApp la gira a te. Così lo vedi e ti spaventi e non ne vuoi più, vedrai. No, ma a parte gli scherzi è passabile in FM. Quella che arriva benissimo, la modulazione non è niente male, certo, ma sarà qualcosa tipo questo RSI, certo, però è perfetto, è così finissima, per me è buona, io la vedo 5. Aspetta un attimino, Antonè, voglio il tuo... l'orecchio di Pomponio voglio, che è allenato, che Antonello è orecchione. Grazie, di complimento. Comunque esce molto meglio delle cose ZX. C'è una bellissima modulazione quel microfono, capito? Evidentemente c'è la capsula come si deve, no? Quella altoparlante da 150 ohm, che sembra altoparlante di cuffia, sembra, cazzo. Aspetta, un attimino, fermi, non riprendete, un attimo riguardo l'amperaggio. Sì, c'è ritardino anche questo, 0,3 secondi, dai, un terzo di secondo di ritardo. Cosa vi volevo dire? Porca miseria, l'Alzheimer. Aspetta che faccio la foto e te lo mando, Antonetti. E continua a vantaggio, non lo dai più, guarda che ci bene. Ah, conta una cosa Fabio, io ho un filtro anti-TVI di un discreto, se io metto l'antenna diretta il segnale sale sicuramente, perché se questo me ne dà 4, che secondo me non ne dà, secondo me ne dà 3, se ritolgo il filtro mi dà un watt in più, dovrei salire, cioè, se te lo vuoi sentire nudo e crudo mi stacco e attacco, dai. A me già siamo messa su vita della YouTube, guardi di 930, non c'ho. Perciò differenza di segnale non ce ne sarà, e penso neanche di usare. Quindi cosa fare dietro? Piace bene di usare, a voi, al meglio delle ZX la verità. Ma lo potrai dire, di fare quelle cosine che ti ho detto, quindi piace bene, poi sei innamori, che piccolo piccolo, funziona bene, alla fine di quello, se ci prende bene di radio, così. Antenna diretta, com'è? 1-2-3-4-5. Benissimo, esce benissimo. Qui a manetta di segnale, qua è la radio è l'ultima. Te lo incarto? Marco, guarda WhatsApp. Io col vicino, aspetta che è un regalino, lo so. Aspetta che rispondo ai messaggi, un attimino che sto ricevendo messaggi. Quindi Antonè, ok, ha passato la prova. E già, sento che esce bene. Esce meglio di quello che abbiamo noi due. Eppure lo sai che all'inizio, quando l'ho comprato, mi dicevi esce tutto così. Probabilmente questo è come il vino, migliora col tempo, dai. Luca, riprendi? Ci sei ancora? Sì, mi senti? Siamo in FM, Luca. È strappato, sì. Guarda adesso, 1-2-3, prova. Ottimo. E guarda WhatsApp, ho trovato un messaggio. Ehi, Elu, un attimino che prendo il cellulabile, dai. E riprendete nel frattempo, dai. Allora, sono contento, sono contento. Allora, gira non mi conviene da... Oh Fabio, non mi conviene darla. Sto con il cuore, sto tranquillo. Mi sento quasi imbarazzato. Oh, questa era ferma 3 anni, 2-3 anni che non lo usavo, perché... Cioè, no, non posso passare dal 3009 a questa cosa, è una cosa obbrobriosa. Comunque, aspetta, faccio la foto e la mando a Antonello. Un attimino, vai, riprendete. Benvenuto, Luca. Mi senti? Attenzione, ecco. sei troppo alto, chi è? Avanti. Siete avanti le femmine, insomma, sai che la voce, non so da dirti. Mamma mia, non si capisce niente. Chi sei, Fabrizio? Non tocco le volazioni, se fai...